L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti per questa puntata dell'Altro Pianeta che registriamo al CERSAIE, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno, ovviamente di Bologna. In questa settimana Radio 24 si è un po' trasferita qui e quindi anche l'Altro Pianeta è arrivato a Bologna. Di cosa parliamo noi oggi? Parliamo di posa di piastrelle, ma in realtà parliamo di molto di più. Vi presento subito i nostri ospiti: Matteo Giovenzana, che è vicepresidente di Asso Posa, benvenuto. Buongiorno, benvenuti a voi. E sì, in effetti siamo a casa vostra, siamo accanto proprio al padiglione di Asso Posa, quindi più o meno possiamo dire che siamo benvenuti a casa vostra. Massimo Manzotti, presidente di Asso Posa Lab, benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, Asso Posa Lab, poi ci dite esattamente cosa fate, però entrambi ci tenete a dire che siete maestri piastrellisti, e questo già ci introduce nel vostro mondo, perché non è un mondo così lineare come magari noi ci immaginiamo normalmente nelle nostre case. Ci sono tanti livelli di preparazione che si possono raggiungere attraverso i corsi, ad esempio, appunto, di Asso Posa, esatto. Asso Posa Lab, immagino. Esatto. Chi ci spiega chi sono i maestri piastrellisti? Matteo o Massimo? Matteo. Spiego io. Sì, sì. Allora, i maestri piastrellisti sono dei posatori che, seguendo un percorso di 5 giorni con della teoria e della pratica, vengono valutati sulla base di una norma UNI con delle valutazioni per quanto riguarda degli standard da ottenere sul risultato finale. Questo percorso permette ai posatori comunque di arrivare a due livelli di specializzazione, di piastrellista o maestro piastrellista, in base al percorso che uno svolge, si riesce a ottenere, come dicevo prima, un diploma o l'altro. E viene prima quello di piastrellista e poi il livello più alto è quello di maestro piastrellista. Che non è maestro perché insegna agli altri, no. Cosa ha di più rispetto al piastrellista? Il maestro piastrellista... Diciamo, posso intervenire? Prego, prego. Il maestro piastrellista è colui che raggiunge un grado tale di professionalità e capacità lavorativa che rasenta la perfezione. Quindi nei nostri corsi proponiamo un percorso formativo di 40 ore dove c'è una parte teorica e una parte pratica. La parte teorica riguarda la conoscenza e l'assimilazione di quella che è la normativa vigente, che è nata nel 2013, è una normativa UNI 11493 nello specifico, dove è stato finalmente messo nero su bianco tutto quello che deve avere una piastrellatura ceramica per essere a norma. Quindi oggi non si può più parlare di pavimento a perfetta regola d'arte, ma si parla di pavimento a norma. Perché prima l'edizione precedente era perfetta regola d'arte. A regola d'arte che può essere anche soggettiva o interpretativa. Certo. Senza dei parametri ben definiti, a perfetta regola d'arte per me è così e per qualcun altro no. E invece la norma che cosa prevede? Dove va a incidere, diciamo? Devono essere dei parametri, immagino, più scientifici, certo. Diciamo, meno ad occhio. Sono stati introdotti dei parametri di misurazione. Di misurazione e di qualità del manufatto che si va a realizzare, comunque dell'opera che si va a realizzare. All'interno di questi standard ci sono delle misurazioni che si possono e si devono fare nel campo della piastrellatura ceramica. La normativa non è solo una misurazione, la normativa riguarda anche l'utilizzo dei materiali che si vanno a proporre ai clienti o comunque che si vanno a posare in casa dei clienti. Questi materiali hanno tutti delle caratteristiche differenti. Oggi il mondo della ceramica è qualcosa di veramente ampio. Esterminato, basta guardarsi intorno. Guardandosi intorno, non so quanti migliaia di metri quadrati piastrelle sono qui al CERSAIE. Si va dalla tessera minuta da 5 mm per 5 mm alle piastrelle di ultima generazione che siamo arrivati al 1,60 m per 3,20 m di larghezza. Quindi all'interno di questo range praticamente c'è di tutto. Asso Posa nasce per qualificare i posatori professionisti. Perché? Perché proprio il range è così ampio. Quindi non posso più essere un qualcuno che si improvvisa posatore, prendo un secchio di attrezzi e vado a montare piastrelle. Oggi, data la tecnicità dei prodotti ceramici che si vanno a posare, la tecnicità e le caratteristiche dei prodotti che servono per posare le piastrelle ceramiche sono così tante e così ampie che per forza di cose un buon professionista deve assimilare, deve sapere. Cioè, quello che ci sembra tutto uguale, quelle ceramiche delle piastrelle, non possono essere messe in posa tutte con, non lo so adesso come si chiamerà, in certo, sono malta, in pasto. Sono, cioè, ognuna ha una richiesta specifica. Esatto, sono adesivi diversi, additivati con varie sostanze, ci sono dei sigillanti particolari. Noi, essendo operatori, proprio che viviamo in prima persona queste, diciamo così, queste casistiche, siamo a contatto tutti i giorni con queste sostanze. Un occhio quindi particolare alla composizione. Noi non siamo dei chimici o dei super tecnici, noi siamo... Però dovete sapere come assemblare le cose. Esatto, uno assemblare le cose, un occhio di riguardo anche alla composizione di questi prodotti. Non tanto alla ceramica, anche alla ceramica, perché in questa fase, diciamo, di moda, fra virgolette, di queste grandissime lastre, abbiamo anche delle grandissime lastre a spessore sottile che vanno accoppiate per renderle resistenti e durabili nel tempo a dei prodotti che non sono ceramici, prodotti stuoie in fibra di vetro incollate con adesivi particolari. Quindi un'attenzione anche a tutto quello che è la lavorazione di questi prodotti. Nei nostri corsi formativi cerchiamo di portare avanti tutto quello che è il discorso anche di sostenibilità per noi in prima persona, perché li lavoriamo con le mani e ne respiriamo le polveri tutti i giorni, e anche, se riusciamo, per il cliente finale consigliare qual è il prodotto migliore. Ok, quindi questi erano infatti i due punti su cui sarei tornata sicuramente, visto l'introduzione che ci faceva Massimo Manzotti. C'è una questione di salute per voi operatori, c'è una questione di salute per chi poi vive in quella casa, per cui bisogna fare attenzione a quando mettete in posa, ma anche nei mesi successivi, insomma, che tipo di adesivo è stato utilizzato può fare la differenza, no? Esatto. Quindi questo si studia nei corsi da, certo, piastrellista e poi da maestro piastrellista nelle fasi successive. Esatto, esatto. Benissimo, quindi abbiamo già abbastanza carne al fuoco. Questo fa anche capire che la formazione poi alla fine è un beneficio per l'utente finale, no? Chi chiede la messa, certo, ma certo, è anche va retribuita. Quindi qualche volta si diceva prima, vi trovate a confrontarvi con chi chiede prezzi un po' più bassi, certo, però forse non tenendo conto di tutto quello che c'è dietro. Di quello che si diceva prima, che oggi non è più un mestiere che si possa improvvisare, ma dato tutte queste complicanze che ci sono nella gestione sia delle ceramiche sia dei prodotti che si utilizzano per posare le ceramiche, pensiamo sia fondamentale la professionalità di chi va a operare. Quindi avere sicuramente in casa una persona in grado di gestire completamente quello che è l'area di cantiere, siccome oggi in Italia si parla purtroppo sempre meno di nuove costruzioni e sempre di più di ristrutturazione, quindi in tantissime casistiche si va ad operare anche in appartamenti già abitati, e questo ha delle conseguenze illimitate per chi abita la casa. Quindi la gestione responsabile di un operatore in cantiere, del cantiere stesso, fa sì che ci siano intanto meno disagi per chi abita l'appartamento durante i lavori di ristrutturazione e la certezza di avere comunque un professionista al servizio, quindi che abbia cura non solo del proprio lavoro ma anche di tutto quello che sta intorno al proprio lavoro. Certamente. Matteo Giovenzana poco fa, appunto, dicevamo prima di iniziare questa registrazione di quali accortezze si possono avere. Facciamo qualche esempio, no? Non attraversare la casa su una moquette bianca con tutto il materiale. A cosa state attenti in queste occasioni di ristrutturazione? In fase di ristrutturazione, come dicevamo, allora, la logistica del cantiere va gestita salvaguardando comunque i locali da attraversare per arrivare al posto di lavoro, nel senso, una copertura di tutto quello che bisogna calpestare, avere riguardo comunque dell'ambiente domestico, come si diceva prima con Massimo. E importante sono comunque secondo me, trovare il luogo ideale e idoneo per lavorazione di materiali, possibilmente se ci sono all'esterno della casa. Sì, sul balcone, se sui balconi. se ci sono, se no comunque bisogna attrezzarsi a fare dei semi lavorati comunque in un laboratorio e portare dei materiali già lavorati in parte comunque in appartamento, per evitare comunque, come dicevamo prima, sempre queste polveri. Addirittura oggi si fanno anche dei tagli con delle attrezzature che lavorano con acqua, quindi non sempre c'è la possibilità nel rifacimento di un bagno, di una cucina, di piazzare tutte queste attrezzature nel soggiorno abitato. No, magari anche meglio di no. No, infatti, specialmente ecco, se la casa è abitata. La salvaguardia in quel... degli ambienti, valutare con sopralluoghi preventivi, nel senso la logistica, e offrire un miglior risultato con la minor come si dice, disturbo, ecco, possibile. Disturbo possibile ai clienti. Allora, adesso dobbiamo fare una piccola pausa e poi proseguiamo. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini, siamo in diretta per questa registrazione di questa puntata al Cersaie di Bologna, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredo Bagno, e con noi ci sono due maestri piastrellisti, Matteo Giovenzana, che è il vicepresidente anche di Assoposa, e Massimo Manzotti, presidente di Assoposa Lab. Continuiamo con voi il discorso che abbiamo interrotto qualche minuto fa sui corsi per diventare maestri piastrellisti. Abbiamo detto che cosa si fa in linea di massima, ma ci sono poi dopo anche alcune specifiche che adesso vediamo, e vorrei riprendere anche il discorso su quello che è un lavoro a norma, che è un po' diverso dal concetto che si usava prima del lavoro a regola d'arte, perché il lavoro a norma prevede che risponda a determinate specifiche caratteristiche poco contestabili rispetto a quello che poteva essere un lavoro fatto a regola d'arte, che uno può, come diceva prima Massimo Manzotti, contestare, dire ma secondo me a regola d'arte, secondo te no, non c'è un criterio scientifico, diciamo così. Esatto. Quindi torniamo ai corsi. Sì. Abbiamo detto appunto ci sono vari step, si è prima piastrellisti, poi si diventa maestri piastrellisti a seconda del grado di specializzazione. Che altro si impara? Immagino anche utilizzare la strumentazione, oltre alla parte prima abbiamo detto anche degli adesivi, saper capire, no? Esatto. Quale ceramica si sposa con quale adesivo, certo, con quale sigillante. Dunque, per quello che riguarda i nostri corsi, nella parte teorica, oltre alla parte pratica, nella parte teorica si impara, oppure si apprendono tutte quelle che sono le novità nel campo delle attrezzature, le novità nel campo degli adesivi, l'utilizzo di queste attrezzature, che sono comunque sempre di pari passo con quello che è la produzione delle ceramiche. Quindi se fino a qualche anno fa con delle attrezzature più piccole, più minute, si poteva affrontare qualsiasi tipo di pavimentazione e rivestimento, oggi come oggi è molto più complicato. Le attrezzature si sono completamente trasformate, anche perché la gestione, come dicevamo prima, di queste lastre di grandissimo formato richiedono delle attrezzature particolari. Che adesso vanno di moda, ma magari tra qualche anno no. Esatto. Quindi adesso bisogna averle, le attrezzature, esatto, tra qualche anno magari sono di troppo. Ci costringe a fare degli investimenti mirati per le attrezzature, con la speranza di poterle ammortizzare nel tempo. Speriamo che la moda non cambi così rapidamente. Certo. Poi, infine, nei nostri corsi si parla comunque anche di manutenzione e pulizia di quello che sono i pavimenti. Nella normativa, come si diceva prima, uscita a marzo 2013, è chiaramente specificato che la pavimentazione o comunque la piastrellatura ceramica deve essere consegnata al cliente finale dopo aver passato un collaudo che prevede comunque anche una pulizia finale di quello che è della pavimentazione, della piastrellatura, di quello che andiamo a consegnare, che deve essere pronto per essere abitato. Quindi purtroppo noi sentiamo ancora in giro diverse lamentele, non da parte dei nostri associati, ma di persone che hanno fatto lavorare posatori che probabilmente non conoscono ancora l'esistenza di questa normativa, dove ci chiedono come pulire un pavimento. Mi hanno lasciato il pavimento, ci sono delle ombre, non riesco a toglierle. Ecco, questo con un pavimento a norma non è più possibile. Certo. Non è più possibile. Quindi, perché se qualcuno viene, se uno ha bisogno, diciamo, viene piastrellista, deve, chi ci ascolta adesso, da questo momento in poi sa che deve pretendere questo, esatto, perché esatto, così è previsto, insomma. Perché il professionista deve essere in grado di fare anche, ovviamente, questo. Se chiama un professionista, certo. Se poi invece fa vicino, come di casa, sappiamo, è un altro paio di maniche. Esatto, che sul mercato purtroppo, e questa è una pecca un po' della, diciamo così, del nostro sistema scolastico italiano, non voglio addentrarmi in cose non inerenti, però le scuole professionali purtroppo hanno abbandonato da tempo quelle che sono l'insegnamento di queste professioni. Quindi ci si arriva ancora come si usava in tempi un po' più remoti, ancora a bottega. Esatto, quindi se io ho un maestro in grado di insegnarmi delle cose che vanno bene, farò delle cose fatte bene. Se imparo da qualcuno che comunque non è aggiornato, comunque non è al passo con i tempi, imparerò per quello che mi insegna. Quindi il nostro, fra virgolette, consiglio è chiaro che... Ma esiste un registro dei piastrellisti? Certo, certo. Cui con, nella nostra associazione, esatto, la nostra associazione, che ha anche un sito internet, che è assoposa.it, c'è all'interno l'elenco di tutti i professionisti che fanno parte di Assoposa, cioè tutti quei posatori che, dopo aver superato questo corso di attestazione, hanno la qualifica di piastrellista o maestro piastrellista e comunque sono a conoscenza di tutto quello che è il mondo della piastrellatura ceramica, della messa in opera della piastrellatura ceramica. Si diceva prima, Matteo Giovenzana, che vi siete trasformati anche un po' in mobilieri in un certo senso, no? Perché negli ultimi anni è venuta molto la moda di coprire ad esempio le cucine con piastrelle, quindi anche questo è un aggiornamento che costante, diciamo, che vi tocca fare, è un cambiamento anche della professione, magari da soddisfazione, non so. Soddisfazione sicuramente sì. Non facile magari non facile, adattarsi. E le maestranze devono essere veramente di un certo livello. Infatti, ricollegandomi a Massimo, il maestro piastrellista è colui che è in grado di soddisfare certe esigenze, dal top della cucina al top del bagno, al rivestimento di un angolo di una scala particolare, piuttosto che tutto quello che è arredo. Allora, il discorso che si faceva è con queste grandi lastre oggi che abbiamo, riusciamo a dare una continuità dal pavimento al rivestimento e al complemento che è il mobile. Allora, però nell'usare una lastra, ma anche fosse una piastrellina di 5x5, insomma qualunque cosa utilizzate per una copertura di una cucina, a maggior ragione ci vuole una competenza sul tipo di materiale, visto che io poi sulla cucina ci cucino, che è ben diverso dal camminare su un pavimento, no? Quindi anche lì forse sapere che questa piastrella va bene e quest'altra è idonea, no, idonea o questa non è idonea per motivi igienici, Ma infatti di resistenza anche al calore, resistenza giustamente al calore, ma la cosa principale è l'igiene, nel senso che non possiamo pensare di andare a fare delle sigillature o delle giunzioni con dei sigillanti tradizionali dove abbiamo bisogno di una richiesta alimentare tossica e antimacchia. Quindi si entra, cioè, nello specifico in prodotti particolari, tra virgolette, diciamo, per alimentari, ecco. Quindi anche questa è una questione scolastica, direi. Infatti, sicuramente della vostra scuola, perché chi se lo fa da sé può rischia veramente di fare un danno doppio. Sì, non conoscendo, ecco, non avendo una conoscenza profonda di queste tipologie di materiali, consideriamo che parliamo comunque su determinati tipi di sigillante di prodotti chimici, quindi conoscendo quelle che sono le caratteristiche del prodotto, vado a scegliere il prodotto più idoneo per un determinato tipo di lavoro. Quindi su una base di cucina avrò comunque bisogno di un prodotto che non mi rilasci delle sostanze volatili, quindi con una bassissima emissione di VOC e una funzione battericida o fungicida. Quindi conoscere quali sono i prodotti idonei per fare queste tipologie di lavoro comunque richiede dedizione, un po' di tempo per andarsi a leggere le schede tecniche, per partecipare a dei corsi di aggiornamento, per essere comunque sempre informato su tutto quello che è la possibilità di utilizzo di questi prodotti, perché un determinato prodotto, che sia un sigillante, che sia un adesivo, non è detto che vada bene per tutto. Quindi magari posso andare a sigillare una cucina con un prodotto che sì, mi fa un effetto bellissimo, sì, non ne assorbe niente, ma poi se nel tempo continua, no, se nel tempo continua a rilasciarmi delle sostanze tossiche, non è proprio l'ideale per stare su una cucina. Ecco. Certo, sicuramente. La conoscenza, ecco, di queste cose per noi fa parte della professionalità di un posatore, di un piastrellista. In chiusura mi faccio un po' di affari vostri. Voi come avete iniziato? A bottega o... A bottega. Io ho 51 anni, ho cominciato che appena finite le scuole, anzi dopo un po', perché mi piaceva andarci, e allora ho continuato. Andare a scuola? No. O andare a bottega? Andare a bottega. Uguale? No, anch'io uguale, ho 40 anni, ho cominciato a bottega. Arrivo da generazione, dal nonno, il padre, e adesso sono io. Quindi sono la terza generazione che... E non si andava a scuola un tempo? No. Si andava a scuola, io ho avuto anche la fortuna di andare a scuola di sera, però comunque la passione... Ma non è a scuola da piastrellisti, no, intendo? No, non esisteva una cosa non come esisteva, quella che fate voi adesso? Non esisteva. Assolutamente. Però assolutamente. Comunque principalmente era bottega, Massimo. Sì, un po' anche diciamo così, che in questa associazione, diciamo, che è nata principalmente dietro la spinta di Confindustria Ceramica, che tramite le loro aziende che hanno cominciato a produrre questi prodotti sempre più grandi, sempre più performanti, il problema che si è posto è quello della messa in opera. Proprio perché quindi insomma la spinta viene dalle ceramiche, abbiamo bisogno di gente capace di metterle in posa. Esatto, di gente qualificata che non si riesce a formare in due giorni. Ecco, gente qualificata perché i nostri corsi, diciamo, noi non vogliamo definirci scuola, perché non siamo una scuola, siamo un'associazione che attesta la professionalità dei piastrellisti. Ora, grazie alla legge, non mi ricordo se è 3 o 4, sulle professioni non regolamentate, stiamo cercando di arrivare al riconoscimento della qualifica di piastrellista. Cosa vi cambia questo? Cambia che ci potrebbe essere un albo a livello, diciamo, nazionale, o comunque al rilascio di una certificazione di un pacchetto pavimento. Quindi un pacchetto pavimento composto da tutto quello che sono la varia stratigrafia che compone una piastrellatura ceramica, in collaborazione sicuramente, perché non è un posatore che può fare tutto questo, ma la nostra associazione è rivolta anche ai rivenditori, dove abbiamo già diversi rivenditori associati. Quindi questo pacchetto pavimento, come lo chiamiamo, viene certificato dall'inizio alla fine, perché le nostre attestazioni sono tali che possono garantire la qualità di tutto questo percorso. Però prima di arrivare a questo, secondo me c'è ancora tanto da lavorare. Secondo me, adesso poi non abbiamo finito più o meno il tempo, c'è anche da lavorare sulla testa di chi fa le ristrutturazioni, certo. Nel senso che credo ci sia molto fai da te in giro. Un po' sì, dove vorremmo arrivare noi sarebbe l'obiettivo che ci poniamo di raggiungere, sarebbe quello di ottenere un rilascio di una certificazione, come può fare l'idraulico, come può fare l'elettricista. Quindi un rilascio di una dichiarazione di conformità di quello che è il sistema pavimento che io sono andato a posare. Questo per una maggiore garanzia, per una maggiore tranquillità anche dell'utente finale. Grazie davvero Matteo Giovenzana, Massimo Manzotti di Assopose, semplifichiamo, esatto. Vediamo tutto insieme, buon lavoro e arrivederci alla prossima occasione al Cersaio. Grazie, buona giornata anche agli ascoltatori.